bisogno di te, perché non conosco altro. Quando sono giù provo a dormire, a volte ci riesco, ma quando non ci riesco penso che stai facendo. Cosa stai facendo? Non è difficile da indovinare, ma per adesso non ci voglio pensare. Senza di te sono perso. Quando sono